dando colpi, sta facendo così, è. Confermo, ma non ti si addice, per essere chiaro, non per... hai la modulazione, sembra che stai parlando, da lontano voce alta, però non abbassa il radio, non è bella spinta come dovrebbe essere quel microfono lì, o Gianni. Ehi, Marco, ascolta, è meglio di prima oppure peggio? No, no, no, stai andando male, è tutto... E allora a questo punto va rimesso come era prima. So che ieri lo stesso non spingeva abbastanza, oggi ha peggiorato. E allora gira gira è meglio metterla come era ieri. Però rimane così e poi non spinge molto. Boh. Ascolta quest'audio, Marco, ascolta. Il tuo? Ehi, ascolta il mio audio. Eia. Copiata la Sardegna, cambio. Ciao Franco, la città di Sassari, segnale 9+, radio buona. Ok Sassari, ti rilancio l'amico Enterprise, ok? Ma Enterprise per la... Abba. Sassari. Non vuoi proprio ragionarci, ascoltati quel messaggio e poi dimmi se ho torto ragione. Aspetta, abbassa il volume qua. Italia. No, dimmi se ho torto ragione, nella sincerità e per carità, senza voler male a nessuno. Dimmi se ho torto ragione. Sassari, l'hai ascoltato l'amico Francesco Enterprise? Un attimo che sono al telefono. Hola, hola, hola, hola, Marco, ci sei? Secchio di ex, ascolta Sardegna, Brecco che chiama. Radio incomprensibile, non riesco a ascoltarti, dai. L'hai ascoltata, Marco? Marco? Oh, Jesus. Ehi, ma Marco dove è andato? È morto un messaggio. Lo stavo, per dire la verità, lo stavo chiamando anch'io. Non si è spostato di nuovo a 10. Boh, guarda, Cla, se cambia qualcosa, guarda ti lo smitterà anche. No, no, uno, devo aspettare niente. E due, guarda un pochino se ha cambiato la radio e com'è. Ah, ok. La radio è diventata leggermente satura ma comprensibile. E il segnale è sempre 9,20, 9,22, abbiamo lo stesso problema. Sì, ho ancora due possibilità, porto, ma ci riesco, stai tranquillo che ci riesco. Okay, no. Io sono testardo come un mulo. No, capisco questa cosa che abbiamo, anch'io, sesta marcia, col Cobra, quasi 180 watt modulati, 9,22, e tu lo stesso, 200 watt modulati, 9,22, minchia cazzo. Vabbè, guarda, devo raggiungere un obiettivo e ce l'ho in mente, lo devo fare. Vediamo, guarda, stavo per, e tu l'hai avuto, il 22, il TL. Se c'hai soldi a buttare all'Enel, io te lo consiglio, io ne ho buttato tanti, alla fine l'ho dato ancora in garanzia, però mi sono divertito. Ma stai attento, io ho l'FL 2100 da Iaeso che non ha niente da invidiare a 9,22, non ha niente da invidiare, io con 50 watt ieri, 50 watt d'ingresso che ne riceve 100 ero intorno ai 750-800, più o meno 9,22. 9,22 io lo usavo col 430, le davo una cinquantina di watt, 50-60 watt d'ingresso, e ero intorno ai 700 watt. Però io a valvole ne uso poco, l'ho tolto ieri proprio per provare, mi sono divertito ieri notte, veramente di quello che è Massimiliano, con quattro ventole, mi pare che forse c'era mio padrino, ma lui c'era tre, comunque danno un sacco di watt, arrivano anche a 900 un kilowatt. No, quello che ha lui ha quattro ventole, cosa ha tre? Quattro. Allora è un modello come quello che c'ha Massimiliano, più alto di quello Massimiliano, dovrebbe essere il 1000 allora. O l'800, non lo so, io ho il 500, Massimiliano c'ha il 700, adesso non mi ricordo, e allora lui c'ha quello più grosso, io c'ho come quello che c'ha Vittorio nella furgonetta. ITL, devo contare un vettino, un bel, parecchio. Ciao Maria di la Vossa, boh. No, già, vabbè. Devo provarlo, vabbè. No, ma è una buttella, no. È una cosa, un gusto, meglio un gusto che 100 anni, no? Io il gusto me l'ho tolto, però stava diventando un cattivo gusto, perché ogni bolletta, ciao Massimiliano, ogni bolletta era in lire 300, 280, 280 mila lire, 320 mila lire, quindi insomma, non è che era una cosa, sono arrivato anche a 350 mila lire, però stavo dalla mattina alla sera attaccato, mi ha bruciato anche di radio, tipo quella di Antonio Reventi quando è venuto a prendermi per andare al mercato, ho detto sto scendendo, adesso che vado non va via più la radio, ciao Massimino, buon notte, cambio. Buonasera, chi c'ha Maria di la Vulta, la vedi stasera, buco. Cazzo Massimino, mi sia passato il segnale dallo spostamento dell'antenna, cazzo, boh, ho scelto un po' i vatti. Io? Un po' i vatti, sì. Sempre gli stessi, quelli della radio, qua. Sicuramente hai spostato l'antenna e ti sei abbassato anche tu. Ma io mi sono abbassato da te, io ho gli stessi vatti, mi sono abbassato. Sì, 9.10, sì, prima di 15. Ok, 20. Porca ritorno, 9.22. Mandi voi andare, il 27, 9.22, mandi voi andare. No, ma più che altro è... non per la 27, la 100, io voglio collegare all'altro. Voglio collegare all'altro e lasciarlo così, con lui, capito? Sì, ho capito, ma... non so quanto ne valga la candela. Massimiliano, non lo voglio prendere, l'ho visto, ma sono troppi soldi, poi come mi ha ricordato Claudio, ringraziare a lei, ne ho già regalato anche troppi, e questi magari consumano anche meno, vedi? Massimiliano, ho piazzato due ventole, per carità, qua se vuoi fresco, farò sentire, adesso l'attacco, guarda, aspetta un attimino. No, non se ne sente. Sì, no, mamma, le cose che c'è un ventilatore. Vabbè, no, le ho messe così, per gioco. E quindi, ma ci vediamo, mi si è abbassato il segnale, dai. Vabbè, pazienza. Sì, vabbè, lo stesso, se già ci sentiamo lo stesso, non ti preoccupare, cra. Oh Tino, allora con meno spesa riesci a arrivare con più watt di quel TL922, con meno spesa? Non dire niente. Tipo ti fai un alimentatore 24 volt, come ce l'ho io, e ti prendi un 1200, e sì, a 900 in AM, puliti, ma puliti però me. Ma guarda Massimiliano, dobbiamo parlare perché io sono profano per queste cose, proprio non capisco un cacchio. Ma fatti comprendi, no, io ce l'ho l'alimentatore 24, ti metti un lineare da camion, e si è arrivato. Sono trasistolizzato, consumo alla metà. No, non c'è Pasquale, poi è uscito. E come no, piacere, ciao Sicilia. Attenzione, canale 20, cambio. Proprio dai, io vi saluto e vado a mangiare. Ciao, ci sentiamo più tardi se coincide. Ok, ciao ciao. Ma c'è propagazione anche 45. Qualcosa c'è, proprio stavo ascoltando anche, vabbè. Ok, dai. Va bene, ciao. Oh, Massimiliano, ma l'hai visto quanto conta quello che ho io, l'altro? Quello? che hanno, che hanno sovramodulato. Dimmi qua. Ho detto 400 pini ne dà. Non vanno bene, a voglia. Io cosa c'è di pini? Di nappa per la M. Va bene, 400 watt sono più che sufficienti. Massimiliano, dimmi te. E quello che stavi dicendo tu poc'anzi di cosa come si chiama, ma quello del RM Italy stai dicendo? Sì, io ho il KL 805 della RM Italy, tre ventole e tre marce, e vedo per i buchi, so se esento viene bene la M. Ok, vabbè, però mi devi aiutare a fare l'alimentatore 24. L'alimentatore non c'è problema, bisogna buscare i moduli che ce li hanno, anche io li ho presi da internet, perché per esempio ne ho preso 6 e li ho pagati 22 euro l'uno. Ah, per farti capire ho speso 200 euro io per fare l'alimentatore, ok? E poi un altro 300 euro, 250 euro si trovano queste cose così, eh? Però oltretutto puoi usare anche, con un alimentatore ti puoi usare anche tutte le radio, perché c'hai sia 12 che 24, attenzione. Ah, e non va a sopprimere lo stato dell'altro? Assolutamente no. Good night, good night. Vabbè, dai, già ne parleremo, adesso lo dovrò accumulare, poi vediamo. Beh, fai conto, 6 moduli così sono 300 ampere a 12 e 150 a 24. Io sicuramente non riprendo più. Bene. Ok, mi sembra che entrato anche Gianni ci sei? No, negativo, ecco, ha finito, dai, diciamo che ha finito, dai. Tutto se non c'è più, è roba di propagazione. Claudio, ma hai chiuso? Mi sa di sì, Claudio. Spendi la metà dei soldi, capito? Vabbè, tu mi dirai, quello è di linea, una fra Cuba. No, non mi interessa, anche perché poi l'importante è poi arrivare alla conclusione, no? Oppure ti, un'altra soluzione c'è, con intorno alle 400 euro ti prendi un bel BV 2002 e sono 600 watt in AM, poi guarda che la corrente si è arrivato, capito? Non lo so, ne hanno parlato di questo sempre del RM Italy però, che è da casa. No, questo è della ZG, c'è il 507 e il BV 2002 che ha 4 transistor dentro, capito? È sempre transistorizzato, però c'ha l'alimentatore a 24 dentro, capito? Quindi diciamo che l'alimentatore c'è, che c'ha dentro è a 24, però tu colleghi a 220 e si andrà, non devi né accordare né nulla. Ah sì, lo conosco, c'è anche Walter, no. Adesso vabbè, qualche giorno lo faccio prestare per provare, ma non mi piace, quello è solo per i baracchini. Quello, le modifiche d'ingresso ed anche per gli HF. Ma vedi, devi sempre stare lì a cacciavite in mano. No, a me mi interessa uno nuovo, senza fare modifiche né niente, attacchi che faccia tutto, che si accordi da solo e ci c'ha bagaglia, capito? No, tu non accordi niente qua, devi solo ed esclusivamente farti modificare l'ingresso, perché fa da 1 a 10 watt, ok? Quello lo puoi portare da 1 fino a 100 watt d'ingresso, capito? Con una piccola modifica, da niente, poi te lo piazzi lì e lo puoi usare sia per la 27 sia per le altre cose, capito? Vabbè, già ne parleremo, tanto adesso è inutile che mi immagino il tutto per poi non fare niente, capito? Va bene, c'è stato un break, avanti. Provincia di Brindisi? NK, dai, salutoni 7351 qua la città di Sassari, Sardegna, in compagnia di Massimo Bulldozer, te lo rimando, vai, avanti Massimo. Sì, positivo, non so se mi ascolta l'amico in Brindisi, dai, buonasera e ben entrato, 73 cordiali. Io non lo sento più. FM, capito? È un casino. Ma c'è un po' di propagazione del 45, ti? Boh, non lo so, io sono passato qua perché stavamo facendo delle regolazioni con Claudio, giusto qualche cosina di poco importante. Positivo, io ho sentito che è entrato anche Gianni poco fa, si è avviato Dor. Io sono qua, sto aspettando che mi fate entrare. Volevo sapere come andava questa modulazione, sto mettendo un altro microfono, là. Già, io veramente a te ti ho rilanciato, non sei tu che sei entrato, perché prima di parlare con questo di Brindisi io ho rilanciato a te, infatti ho detto avanti Gianni, ti ho chiamato due volte e non hai risposto. Guarda a vedere com'è questo microfono, come va. Va bene già, va bene. Questo è il microfono del ma a me non mi piace. Mi sa che lascio questo qua. Lasciali quello, già va bene, va. Sì, già, lascia, meglio dell'altro. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì, un pochino di più, poc'anzi ti abbiamo perso, L'ho girato dall'altra parte e l'ho diminuita completamente, era tutto al massimo, adesso l'ho riportata com'era, dovrebbe essere di lusso, va. Sì, sì, va bene, già, va benissimo, e avanti ti. Ehi, è entrato di nuovo l'amico di Brindisi che ha detto adesso mi sentite, però poi forse Gianni non l'ha ascoltato. Avanti. Buonasera, sei dentro il 51 con la stazione R5. Vabbè, a tutti i dini, è troppo bellare. È così. No, Massimiliano, guardami, dare un occhio allo Smith un attimino, perché abbiamo lo stesso problema con Claudio, Guarda un pochino, e mi dice aumenta un pochino l'ambaradan. Adesso sono in quarta, Adesso ho messo in quinta, va a peggiorare? No, non va a peggiorare, però non aumenta quasi nulla. Guarda in sesta invece, lo stesso, guarda un attimino. Adesso va a peggiorare, vero? Sì, va a peggiorare, vabbè, forse magari siamo anche troppo vicini noi, magari in lontananza questo difetto non lo fa, però così peggiori la radio e il segnale, vabbè, si è quasi 9.30 qua, quindi usate devo dire. No, niente, dai. Allora niente. Per te Gianni aumenta, tu sei più lontano magari, no, forse tu sei più vicino. Non stavo controllando, stavo guardando il microfono Massimiliano, stavo guardando l'MV5 cosa posso avere, deve essere un po'. Non lo so. No. Adesso mi faccio un salto al 45 se non vi crea problema. Vediamo se c'è qualcuno da fare due passaggi. No, vai tranquillo, tanto io adesso per me vado a picciare il fuoco perché sennò mi fa tardi. Positivo, va. Va bene, sentiamo dopo al limite se coincide, ok? Eia, va bene. Beh, ciao Massimiliano, ciao Gianni, gli avventori ascoltoni. Ciao, alla prossimina. Eia. Ciao Tino, ci sentiamo, dai, buona serata, buona continuazione. Ehi, ciao T. No, già, io sto andando un secondo a 45, vediamo se c'è propagazione. Ehi, dai, ci sentiamo, Massimiliano, dai, buona serata. Natalino, ci sei? Gianni, sono qua. Non fa niente, parla. Zitta, conce, dimmi già. Guarda come esce questo microfono, sto provando il microfono del Cobra su questo apparecchio. Benissimo. La modulazione com'è, chiara? Certo, se vuoi te la registro col telefono e te la faccio risentire da un'altra parte, o qua stesso. No, me la mandi su WhatsApp, dai, prova a vedere Natalia, voglio vedere, sentirmi a vedere come sto uscendo. Secondo come va li lascio questo, perché a quanto pare esce bene questo qua. Aspetta che metto in azione il registratore. Comincia a parlare. Ehi, attenzione Natalino, prove tecniche di trasmissione, prove tecniche microfoniche, avanti. Oh, basta, aspetta. Allora, come faccio a mandarlo su WhatsApp? Aspetta che devo vedere come... come si fa qua? Devi mettere prima salva e poi lo mandi. Una volta che hai messo salva ti fa mandare dove vuoi. Ehi, aspetta che te lo mando, dai, l'ho già salvato e tutto, Gianni. Ok. Prova ad ascoltartela a vedere se è così. Bella, sembra amplificata. È amplificata, non sembra. No, questo è un microfono normale, Natali, è quello del Cobra, è normale. Su Cobra non va bene, Cobra è nativo. Invece qua va bene. Tu prova a fare quel gioco all'MB più 5, poi vedi se nella capsula c'è quell'affare tondo, quella rondella. Quella la devi togliere, imbottire di cotone il microfono, devi, e lasciare solo la capsulina lì, e così non ha il coso di metallico, né. È già stato fatto quello lì, c'è una capsula piccola di quello col coso verde e niente, c'è il ponte, è tutto gatto, è stato già modificato, là. Ok, allora prendi, stacca il potenziometro, vai da Fusaro che lo vendono, e poi va tagliato e messo il pomello, perché te lo danno con un'asta più lunga, te lo danno. Fusaro già ce li ha, quindi poi già c'è scritto da quanto è. Cava cava, va bene, dai. Ti ringrazio Natali, scusa se ti ho disturbato. Qua siete, avete risolto? Figurati già. Marco, guarda come va con questo microfono, 1, 2, 3, prova. Meglio, la timbrica migliore. Con quel microfono normale di prima era più cupa, più ovattata. Questo è già migliore, però te, cosa hai fatto? L'hai rimesso come era prima? E allora era già al massimo, Marco, era già tutto al massimo, deve essere era già stato fatto il lavoro. Era già tutto al massimo, io ho provato e ho detto ma forse si è sbagliato Marco, prova a girare il 60 orario, l'ho già tenuto il 60 orario e faceva quell'affare. Poi l'ho rimesso di nuovo al massimo e adesso è così. Scusa Natali, cioè quando tu hai aperto la radio era già al massimo interrogativo, ma perché ieri andava bene? Cioè usciva meglio e oggi era tutto a colpi? Perché io l'ho fatto andare all'indietro, pensando che tu avessi sbagliato la posizione invece che era orario antioraria, quindi ho provato e usciva male, poi l'ho rimesso come era prima, adesso lo senti come esce, no? Ma quindi non è al massimo adesso, no, è orario il senso, l'ho fatto su un'infinità di apparati. È antiorario. Cioè per metterlo al massimo antiorario. Ascolti, ti faccio la foto del mio trimmer, di quell'altro, ti faccio la foto e te la mando. Orario. Posizione orario era al massimo e così come l'ho rimesso adesso è posizione normale. Ma quant'è, a metà o poco meno, più o meno? È al massimo, non vi siete capiti Marco, l'ha rimesso al massimo perché era già stato fatto quel lavoro. Ah, era già stato fatto, un po' compreso. Ho capito, però non spingeva. Ci avete sentito la differenza col mio, col 3009 mio, no, con l'MB più 5? Sentivo una netta differenza, per non dire abissale. Chi è l'altro? Avanti. Massimo. Ah, vabbè, in quel senso. E allora c'è anche minimo. Vabbè, insomma, morale della favola, questo MB più 5 sul 3009 gira o non gira? Il potenziometro a pigliarla? Gli ho detto andare a Fusaro di metterglielo nuovo e così ha finito i problemi. No, aspetta un attimo, perché il potenziometro nuovo? Perché è scassato quello che ha. Scassato? Ma era scassato come? Chi è avanti? No, scusa Antonio, ma c'ha voluto di propagazione. Prova con questo come esce, dai, vediamo un po', con sa delta, vediamo come va. Una bomba, E il microfono, a me non mi si addice quello lì. Però Galassi, che è un po' più lento del Galassi, lo vuoi rilasciare accoppiato col Galassi. Adesso provo a mettere l'MB più 5 al Galassi e ci avvedevo. Ti ho detto che questo al Galassi se ne fa barba e cappelli, te l'ho già detto ieri e non mi ascolti, ascolti gli altri. Comprati un altro Savelta e boh, se non metti l'MB più 4 al Galaxy, che va bene, andava sempre bene, e questo lo metti sul 3009. Ho già, sì, tutta la sera facendo prove di microfoni. Io ieri, quando tu mi hai chiesto un controllo, ti ho detto che il Savelta era il microfono per quella radio. Invece sì, tutta canta, la sera tu mandando i controlli e si è andato a finire che ci hai rimesso il Savelta. Il Savelta devi andare con quella radio, perché per quella timbrica che tu, su quella radio il Savelta è perfetto, ok? Non vedi, Edo, non vedi, ascolta gli altri, non ascolta i professionisti. L'MB più 4 più 5, Gianni, è sempre uscito bene col Galaxy. A me piace quella modulazione, va bene. Quindi inverti il microfono e basta, è finita lì. Marco, io gli ho detto che quel più 5 che ha lui su quella al 3009. Allora, la radio non è così malvagia, ma non mi piace molto, perché secondo me il Savelta è superiore al più 5 con la sua timbrica. Non so se mi rendo, non so se sbaglio, questo è un mio gusto personale. Vai Marco. Prato sopra Massimiliano. Sì, è molto migliore il Savelta, molto migliore di quello ieri che era strana, non spingeva, era affona. Boh, vabbè. Quello che gli ho detto, oh Marco, siccome ieri stava provando e Gianni è molto pignolo, capito, magari se la prende anche un po' troppo, però io lo sto ascoltando tutta la sera e tutta canta la sera domandando i controlli a tutti. Io già da ieri, come lui ha messo il Savelta, gli ho detto, boh, questo è il microfono per quella radio, perché la sua timbrica è perfetto. Purtroppo lui vuole stare con questo più 5, con questo 3009, e cosa vuol dire? Non lo so, però secondo mio parere personale, il Savelta per quella radio è 100%, poi sono gusti, ognuno, io la vedo così, poi decida lui cosa fare, cosa non fare. Vai Gianni. Scappa, ma allora è l'MB più 5 che non va tanto, perché ieri quello che stavo usando io sul 3009 era nettamente superiore all'MB più 5 che a Gianni, boh. O è uscito male in fabbrica, non lo so quale sia la problema di quel mic là. Boh. Non lo so, noi gli abbiamo detto ieri che quel microfono non spingeva, quel microfono su quella radio non spinge, poi non lo so, va. Avanti, che c'è, Natalino, Claudio, riprendete, avanti. Riprendo io, c'è Natalino, io gli ho detto, e lui mi ha fatto anche trovare male, come se fossi un biscuano, uno che non capisce un cazzo, e hanno detto che va bene, e allora tienitelo. Ma continua a dire che quel microfono in quella radio non va bene, va bene il Savelta. Quel microfono, ok, con qualche ritocco, fa sì che vada bene anche al Galaxy. Ma è inutile che lui sta chiedendo. Alla fine anche Tino gliel'ha detto stasera, non è una buona radio, è accettabile ma non è una radio buona, capito? Mentre invece Savelta è una radio bella, forte e chiara per quella radio. Peraltro, lui ha detto, mi è sembrato di capire che fosse già a manetta il potenziometro della modulazione, era già a manetta, se non ho capito male io, quindi è stato toccato quell'apparato, non era intonso, hai capito? E io che cosa ti ho detto? È inutile che lui dica mi sono comprato un 3009 nuovo, no, quello è un 3009 usato, sarà nuovo, però è usato, e qualcuno lì dentro le mani ce le ha già messe, hai capito? Io questo me l'ho già immaginato, perché nessuno è stupido, capito? Non sono stupido, quindi, però quel microfono non va bene per quella radio, quindi devi usare il Savelta. Va bene l'MV più 5 sul Galaxy, come sta andando? Io non so Gianni, te l'ho sempre vantata questa capire sì o no. Io ti ho sempre vantato l'MB più 5 col Galaxy, lascialo lì e usa il Savelta nel 3009, ora ti riscrivo. Gianni, ma è l'MB più 5 che ti hanno dato che stai usando sul Galaxy? Questo lo sto usando sul Galaxy, Marco, va meglio? Vabbè, meglio di ieri, di come andava sul 3009, sì. Gianni, secondo me dovresti appena appena abbassare i toni, non so a quanto ce li hai, devi farlo un po' più con meno toni acuti. Guarda, vedere, li ho abbassati. Ecco, già così è meglio. Così Massimilia è 10 rispetto a come modula col 3009, è 10. Fai come ti sto dicendo io, Gianni, che nessuno ti può dire il contrario, cazzo. Boh, fai avviare la gente tu, non ascolti. Lascia il più 5 sul Galaxy e il Savelta, mettilo sul 3009 che è una bomba. Cavagava, dai, va bene. Cosa ti costa? Non ti costa un cazzo, ne hai due microfoni, oh. Perché devi comprarti un'altra Savelta? Cosa ne vai? Lascia il ZG sul Galaxy e il Savelta lo sposti al 3009, come sto facendo io. Anch'io sto facendo queste prove. Ho tanti microfoni, Massimiliano mi ha detto, uno lo metti lì, uno lo metti lì, uno lo metti lì. Boh, basta, finito. Ed erano al contrario, erano tutti sfasati al contrario. Ho trovato una soluzione, basta. Però mi sembra un po' strana questa cosa. Se lui ha trovato il trim della modulazione al massimo, mi sembra un po' strano, che non gli abbiano già buttato un cacciavite dentro, perché in poche parole, quando esce dalla fabbrica non te lo danno al massimo la modulazione. Ah, che pitbull, vedo, dici, io non tocco, cazzo, quella era 48 che aveva dato a me a sistemare, era tutto doppiato. Io ho parlato con chi gliel'ha dato, ma io le mani dentro non ce le ho messe. Ascolta, se fosse il venditore, guarda che è stato preso da un certo venditore, che sì, è bravo, quello che vuoi, d'indole, però è un po' un pasticcione, potresti gliel'abbia data già per far contento il cliente con la modulazione aperta. Può essere, però sicuramente ci ha messo le mani anche sui watt, perché quella radio, quando tu la compri, non esce con 10 watt, Marco, tu lo sai benissimo, ne hai due. Sì, anche tre ne avevo, sì, 4 watt, 4 con lo display blu, 4 col display rosso, in AM, FM, e 4 quello dato al profeta, 4 watt. Però può essere che sia il venditore, comunque il venditore è Radio Smitter. E su Roger Cup è un po' chiacchierato come venditore, capito, un po' pasticcione, chi lo sa, magari per far contento il cliente gli ha dato più watt, più modulazione, capito? Ma allora vuol dire che gliel'ha chiesto lui, magari gli ha detto mandamelo già pronto a modulare, e quello gliel'ha toccato. Non mi dica che nessuno ci ha messo le mani dentro. Comunque, a prescindere, la radio va bene, è nuova ed è a posto. Il microfono suo è il Savelta, ok? Perché esce fortissimo, esce benissimo, Gianni, bella modulazione. E quando io te lo dico, perché dico la verità, non ti dico male, se ieri ti ho detto che quella modulazione non mi piaceva, non mi piace, è brutta su quella radio. Mentre invece l'MB più 5 va bene al Galaxy, perfetta. Gianni, no, però nel dubbio poteva fare col cellulare una foto al trimmer e mandarla e gli avrei detto no, guarda che è già al massimo. Allora, quei trimmer io li conosco benissimo, sono tutti in fila, ok? Sono tutti in fila, c'è il 14, c'è il 16, c'è il 13 che sono in vate, li conosco benissimo quei trimmer, Marco. Io il 4005, è preciso il 3009, non cambia una virgola, anche la scheda madre è uguale, ok? Allora, io l'unica cosa che gli ho detto, secondo me, deve leggermente abbassare i watt dall'interno a quella radio, ok? Il trimmer si chiama VR13, ok? Perché 10 watt sono troppi, perché lui aggancia l'amplificatore, adesso satura a morte, è incomprensibile. Secondo me lui se la porta quella radio, con 6 watt è meglio. Non solo, però quel baracchino, se è identico a questo, via dell'approx era il mono finale, cioè non ha, già capito, c'era il finale pilota, poi c'è il finale unico, però cioè tu più vatte li dai, ho provato io, ne dai 5, 6, 7, la radio te la chiude, anche senza lineare, te la chiude, te la fa sparire la radio, cioè a 10 watt stai ammazzando il finale anche. È un MOSFET ma non rende niente. E poi quel tipo è lineare, va pilotato con 4-5 watt massimo. L'ingresso c'era 10, ne dai la metà ed è di lusso. Io questo lo sto pilotando con, a proposito ancora acceso, me l'avevo dimenticato, l'ho visto adesso, 4 watt d'ingresso, vedi tu, 1, 2, 3. Ehi, va in saturazione lo stadio audio, va in saturazione se gli dai troppi watt. Quella radio io non ho, Marco, io la conosco bene all'interno quella radio, perché ti ripeto, il 4500 uguale a 3009, uguale anche di i pomilli, le stesse, cioè le stesse cose, precise identiche. Allora, quando tu la metti a 10 watt te la mangia anche la radio, ok? Se tu la porti ancora non solo di 5, ma la porti ancora con 3 di watt, 3,5, 4, la radio aumenta parecchio. E sono sicuro che quello lì basta darle un giretto così di cacciavite, quella radio esce bene, anche col più 5, perché c'è anche un altro trimmerino volendo da toccare dentro per aumentare la radio, capito? Però già lui portandola così a 10 watt la radio è al massimo, capito cosa ti voglio dire? Il finale è già in sofferenza, in più gli accendi il lineare ancora bigio. Se tu quella lì sono sicuro la porti con 3-4 watt la radio aumenta parecchio. Sì, aumenta, sì, perché stai strozzando già la radio, in più stai saturando l'ingresso del lineare, è tutto lì. Infatti io non saturo, salvo imprevisti. C'era Antonio Riserva, ci sei ancora Antonio? Sentiamo dopo, va a mangiare. Avanti Gianni, sì. Stavo facendo delle cose, mi stavo ascoltando con le cuffie, ma mi sembra abbastanza buona la radio adesso. Sì, ma hai ascoltato un po' i discorsi di Marco? Sì, probabilmente, sai che cos'è? Te lo dico io. Perché la radio aveva il nylon in tutto il coso, ne ho staccato io adesso il nylon, cioè aveva il nylon in tutta la radio. Quindi erano anche le viti, erano tappate dal nylon, quindi non è stato toccato da nessuno, sicuramente dalla fabbrica che l'hanno fatto. Sì, Gianni, so. C'era il nylon sopra le viti. Normalmente non c'è. Gianni, il problema è che quella radio con 10 watt non esce bene, devi per forza un pochino abbassarla, ok? Perché con 10 watt te ne mangia la radio. Ehi, a capo, dai. Vabbè, mangia la radio quando attacchi. Ma se non attacchi non te la mangio la radio, la radio già va bene. No, non va bene, tu guarda quella di Marco che la sta usando con 4 watt, 5 watt, è molto più forte della tua, state usando la stessa radio. Scusa, ho già. Sei al limite, capito? Con 10 watt sei già al limite. No, aspetta, questo è il 4000, quello è digitale, Massimiliano. Quale? Questo è il 5500. Vabbè, ma io ti ho sentito col 3009, tu dicendo che parli sempre del 3009, ma la radio è buona, buonissima. Leia, comunque già, a parte gli scherzi, normalmente quella radio, cioè sulle viti non c'è nylon, assolutamente. Di 3 apparati le viti erano libere, non c'era il nylon che copriva. Quello è stato aggiunto, forse dal venditore. Ripeto, alcuni venditori per compiacere il cliente gli mettono già più watt, più modulazione, più tutto, però poi. Sì, vabbè, ma non lo tocco più, non la proprio. Non la mai, così è, così rimane. No, già, non è così, se tu la puoi perfezionare, quella radio, esce meglio secondo me, poi se la vuoi lasciare così, no, fai tu. Tanto non è più bello quando ti dicono, cazzo, schiacci, cazzo, ogni radio, è così, e invece già scendi il lineare e sei già saturo, perché sei saturo. È lo stesso trabocchetto in cui cade Pomponio, lo carica di watt all'ingresso e c'è saturissimo. Ma si sa, io comunque la radio le ho sempre usate con 2 o 3 watt, poi ognuno è libero di fare come vuole. prima di tutto, perché quando tu la usi con 2-3 watt non stai sforzando il finale né niente, gli attacchi lineari esci bene, poi non è per avere questi 10, 15 watt, 20 watt in più e poi la radio fa cagare. E perché più forte è l'ingresso e più va in saturazione, c'è poco da fare. Quella radio deve andare con 4 watt se vuoi pilotare un lineare, e poi ti apre anche la radio avendo 4 watt solo. Se tu ne dai dritti come te dicendo Edu, sono troppi, e deve stare attento che non si bruci pure il finale, perché è già in sofferenza. Natali, io ti ripeto, io se adesso dovessi attaccare il lineare tu neanche te ne accorgi, perché io le uso così, con 2 watt, 3 watt massimo, esagerando, capito? È inutile, quando tu hai, allora tu dici, c'ho il 747, mi dà a me 100 watt perché li entro con 10 watt, ma la radio fa schifo, è inutile che tu li metti 10 watt d'ingresso e 100 watt, cioè 100 watt, beh, e non è meglio averne 70 o 60 e avere la radio buona, E beh, mi bariuvio, ma poi, 13 watt, avete detto che ha quella radio, sono troppi, 4 watt deve avere, non di più, perché già da normale te la chiude la radio quando tu gli dai tutti quei watt, perché c'è già il finale in sofferenza, che scalda troppo. Ah, esattamente 9 watt, non 13. E 4, ne deve avere 4 che c'è radio, 13 watt li devi dare in banda laterale, quanto ne deve dare Marco in banda laterale? 12 di fabbrica, picco, allora, vuole portata a 4 watt, quello lì, per andare bene, ti apre anche di più la radio. La radio, anche se tu c'hai il trimmer al massimo, va in saturazione per i ti chiude la radio per i watt che è al finale, o che scalda col finale limite. Infatti l'avevo provato anche col Profeta e mi pare di ricordare, gli andava a chiudere la radio, man mano ogni watt che aggiungeva, 6, 7, 8, 9, proprio gliela chiudeva la modulazione. Più brillante, massimo, io direi massimo 5, non di più. Fate Bobis, dai, vado a farmi caffè, ciao. E anch'io vado a farmi caffè, e poi mi vedo un po' di televisione, dai, vi saluto tutti e me ne passo in QRT. Ciao a tutti, ciao. Ciao Natali, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao Massimiliano, Tino, Claudio, non so chi sia l'ascolto, Antonio, tutti. Ciao a tutti, dai, buonanotte.